later, than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude. Mentre nella fabbrica di polli la luce della luna rischiara solo pochi angoli, K e Drago, in compagnia del pollo in smaltimento, stanno per raggiungere l'ambulatorio del dottor Freeze. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Oh, ecco qui, ambulatorio del dottor Freuse. Bene, K, presto sapremo se sei davvero in via di pollizzazione. Oh, parla per te, Drago. Anche per me. Sì, hai tutta la cresta spettinata. Ma dipende quindi da come dormo. Poi allora, pollastri, ora dovete prendere l'appuntamento. Ma scusa, ma pollo in sbattimento, ma il dottor Freuse mi visita subito, no? No. Ma come? Bisogna prendere l'appuntamento. È normale. Ma che sbattimento. Sì, altrimenti ti siedi nella sala d'aspetto e aspetti. Aspetti? Ma non te lo consiglio, perché è una bolgia, eh? In che senso? Ma come, una sala d'aspetto? E pensa un po' tu. Centinaia di polli, tutti malati, tutti in sbattimento, tutti cocoriti, tutti ammucchiati uno sull'altro. No, non voglio. E se vuoi provare questa esperienza, sei libero di farlo. Libero, E allora prendi l'appuntamento. E come si fa? Come si fa? Vai dentro, ti metti in fila per prendere l'appuntamento. Ma come in fila? Ma c'è anche la fila per prendere l'appuntamento? Beh, certo. Ma scusa, questa è una fabbrica di polli, no? E quindi è esattamente come se fosse il socialismo reale. Code, fame, terrore, servilismo, brutture, polizia, eliminazione di massa. Ma voi dove credete di essere finiti? No, ma non farci così paura, pollo in sbattimento. Noi ci troviamo abbastanza bene, ti dico la verità. La paura è la migliore amica del pollo. Lo diceva anche John Cale, che non è della scena krautrock, però è sempre il mio idolo. Quindi tu sei un pollo che non solo è appassionato di krautrock, ma che ascolta anche John Cale. John Cale? Non Gigi Cale, No, ho capito, John Cale. La paura è la compagna di ogni momento qui della fabbrica. Ogni giorno potrebbe essere l'ultimo. Adesso poi con la viaria hanno smesso un po', ma il rischio è che il governo decida di dare soldi agli allevatori in cambio della soppressione di tutti i polli. E io vado in sbattimento, no? Beh, ci credo. Infatti prendi la paroxetina, scusa. Beh, quella sempre, E più anche il becco, ricordate che se viene un questorino governativo, destra o sinistra che sia, io quello lo becco. E lo becco duro, destra o sinistra, sia chiaro, perché magari uno arriva qui e dice: ah beh, io sono di sinistra, questi qui sono polli, lavorano, li sfruttano. No, io mi arrangio da solo, va. Abbiamo già capito come funziona qua. Niente sinistra, e neanche destra. Caro Apelle, come ti sei permesso di fare una palla con la nostra pelle, sulla nostra pelle? E cari pesci, perché venite a galla per vedere questa bella palla fatta da pelle? Figlio di Apollo, io lo so che un pollo mai siederà tra gli dei dei sempre pollo resterà, resterà. Yes, cruel. Oh, yes, it's cruel. Oh, yes, it's cruel. Oh. la fabbrica di polli. Bene, K, adesso che hai prenotato il check-up, non sei contento? Ma sì, insomma. Oh, non lo so, Drago. Mi sento strano. È per quello che hai fatto il check-up. Aspetta. Ma cosa ti interessa di sapere cosa dice quella voce, K? Tanto non è mica Krautrock. Sì, ma lo so che non è Krautrock. È proprio per questo che voglio sapere che cosa dice. Ma non hai la scatoletta magica? La scatoletta. Vedi, puntata numero 21. Sì, ho questa scatoletta che non è nient'altro che un telefonino modificato e trasformato in una ricetrasmittente, vedi, con questo tasto. Bellissimo. Poi collego un cavo Firewire, sì. Attacco tutto al mio portatile e poi faccio un file MP3 o anche un WAV. Ok, adesso sei contento? L'hai registrata la voce di Himmler? No. È strano, no. Non è rimasta traccia del messaggio, non capisco. Come mai? Non so, non me lo legge. Sì, ma ragazzi, qui i padroni non sono mica dei bamba, eh. Cioè? E vi basta craccare un telefonino per intercettarli, eh. Sì, ma voi non capite, non potete capire di telefonini, di cose. La cosa è strana, perché non c'è un modo per proteggere così una fonte sonora. No? No. A meno che... A meno che? A meno che? A meno che... A meno che? A meno che cosa? A meno che... Ma a meno che cosa? A meno che non abbiano creato una gabbia di Faraday. La gabbia di chi? La gabbia di Faraday. Signor Faraday! Signor Faraday! Si calmi, signor Faraday! La fabbrica di polli. Buonanotte, signor K. Sono il dottor Freud. Volevo avvertirla che i risultati del check-up sono pronti. Mi richiama appena possibile. Se non ci sono, c'è la mia assistente personale. Se erano gutti assistenti, non si è presente. A presto, buonanotte. Nostra coppa. Ma come? Sono pronti gli esiti del check-up? Ma io non l'ho ancora fatto il check-up. O sì? Il pigiama dell'ambulatorio del dottor Freuse ce l'hai indosso, quindi... Guarda che bello. Dottor Freuse... Quindi l'hai fatto il check-up? Ma non lo so. Forse sì. Forse no. Check-up, entro, ma... Buongiorno. Lei per cosa è venuto a fare? Il check-up? E non... Chi gli ha detto di venire qua? Ma veramente c'ho la prescrizione, c'è scritto qui. Devo venire... No, lei non è prenotato. Allora, 2 ore perché... Ah, sì, no, è vero. Poi ti dicono, sì, no, è vero, ha ragione, lei è prenotato. Ma non è che ti chiedono scusi per l'errore. No, si sieda là. Ti dico io come funziona il check-up invece. Pronto, buongiorno, vorrei prenotare il check-up. Per quando? Va bene, settimana prossima alle 9, d'accordo, perfetto. Che esami vuole fare? Questo. Benissimo, arrivi lì. Lei, signor K? Sì, benissimo. Allora, questo è il suo pigiama, glielo offriamo nel prezzo finale, qui si può cambiare. Fai gli esami prima degli altri. Sono entrato alle 9, sono uscito a mezzogiorno e mezzo. Col cancro, tutti... prima non ce l'avevi, esci di lì e c'hai il tumore. And the animals suffer. Pronto? Volevo parlare con la signora K. È fuori. Ah, può dire a me? Ma no. Perché? Volevo parlare con la signora K. Ma veramente, ma chi parla? È l'oxologico. No, guardi, ho capito, è per me, sono io che ho fatto il check-up. È per l'esito? Sì, sarebbe per l'esito. No, non è per l'esito, perché poi sono anche coglioni. No, non è per l'esito, era che si è dimenticato di portare una cartella. E perché lo deve dire a mia moglie? Mette giù. Che cosa succederà adesso? Quali saranno gli esiti del check-up che K non ha effettuato nell'ambulatorio veterinario del dottor Freuse? E chi è davvero il dottor Freuse? Non dimenticatevi di ascoltarci domani a mezzanotte su Radio 3 nel prossimo veterinario allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce non nuoce. This program is on the air every night at the same hour. Good night, ladies and gentlemen. Good night.